Letture di Radio 24. Si svolgerà a Capri tra questo e il prossimo weekend l'edizione 2012 della rassegna letteraria Le Conversazioni, una serie di incontri tra autori di lingua inglese e scrittori e giornalisti italiani. Tra i partecipanti della manifestazione dedicata quest'anno al tema del politically correct, anche il premio Nobel per la letteratura Wole Soyinka, che il prossimo 7 luglio si confronterà con Federico Rampini. Il numero odierno dell'inserto culturale del Sole 24 Ore anticipa alcuni passaggi dell'intervento di Soyinka, che ironizza sulle assurdità che possono derivare dall'uso indiscriminato del politicamente corretto. Alla fine, la resistenza creativa alla globalizzazione della letteratura starà sempre nella diversità degli stili individuali, nelle idiosincrasie, nelle peculiarità, sia felici sia sgradevoli, che permettono al lettore di concedersi una festa piena di varietà, per quanto sobria, piuttosto che un sontuoso banchetto dalle portate tutte identiche. In quest'ultimo caso, la letteratura muore e l'immaginazione appassisce. Prova ne è la storia dei lunghi periodi di carestia letteraria nelle società irreggimentate. Purtroppo però, spesso la parola irreggimentare viene usata in senso troppo ristretto per indicare gli interventi di uno Stato totalitario, che si tratti della censura culturale in vigore sotto un'ideologia laica o teocratica. Ma che dire di quella nuova forma di irreggimentazione che va sotto il nome di politicamente corretto? La nostra risorsa letteraria fondamentale è senza dubbio la lingua che usiamo e il modo in cui la usiamo, a prescindere dalla lingua in cui quei pensieri vengono poi tradotti. Uno dei complimenti che ricorderò sempre con maggiore piacere l'ho ricevuto da un altro drammaturgo e poeta, Akin Isola, che ha tradotto il mio La morte e il cavaliere del re in Yoruba. Quando gli fu chiesto quanto era stato difficile tradurre in Yoruba la lingua, a detta di molti, densa e metaforica della mia pièce, lui rispose che non aveva fatto nessuna fatica, o quantomeno non molta. Si era trattato, spiegò, di riportare ciò che avevo mentalmente trasposto in inglese all'originaria matrice culturale Yoruba. Ma questo processo avviene soltanto sulla base delle parole, di espressioni, gruppi di immagini, metafore, proverbi e via dicendo? O bisogna anche scavare nella totalità della cultura viva della lingua da cui derivano? Quando prendiamo in prestito una lingua straniera, investendo a livello creativo nelle sue risorse, siamo obbligati ad affrontare tali problemi. Ciò si deve, tanto per cominciare, ad atteggiamenti che, a mio modo di vedere, ignorano le matrici culturali da cui la lingua è emersa e vi sostituiscono costrutti arbitrari ed extraterritoriali. Queste sovrapposizioni a volte risultano dispotiche e intolleranti, come le società nutrite di ideologia. Immaginate, per esempio, che sfogliando La via della fame di Ben Okri o Songs of the Marketplace di Niyo Sundare, dovessimo imbatterci in un'espressione di saluto tradizionale di fine anno come Olarun Asodun Labo. Tradotta in italiano sarebbe: possa il creatore rendere il prossimo anno femminile. Grida di orrore da... Beh, potete immaginare da quali ambienti. Parliamo di società che sono diventate timorose e conformiste a un livello tale che fa accapponare la pelle a chi non se lo aspetta, e specialmente quelli di noi che le guardano dall'esterno. Un episodio significativo è avvenuto sulle frequenze della National Public Radio negli Stati Uniti. Stavo ascoltando una trasmissione su quel canale e ho sentito un anchorman, pardon, un anchor person, che stava per congedarsi. Ha cominciato i saluti nella maniera più normale. Un buon Natale a tutti i nostri ascoltatori. E poi si è interrotto all'improvviso. Dopo un attimo, fra balbettii imbarazzanti, si è corretto. Scusate, ovviamente avrei dovuto dire buone feste. La paura della specificità, terrore imposto dal politicamente corretto, ha schiacciato la spontaneità. Niente più felice Anuka, niente più felice Kwanzaa, niente più barca de Salah alle feste musulmane. No, per non offendere nessuno, per non far sembrare di aver privilegiato una religione su un'altra in qualunque momento dell'anno, l'augurio doveva essere buone feste. E ovviamente il mondo commerciale prende esempio da queste distorsioni rituali progressiste e le società preparate a certi stimoli, più notoriamente quella canadese e americana, presto inizieranno a cancellare anche i cambiamenti di stagione. È solo questione di tempo. Aspettate che a qualcuno venga l'idea che un riferimento all'inverno e all'estate sia irrispettoso nei confronti degli abitanti del globo che non hanno tali suddivisioni climatiche. Permettetemi di fare presente che la mia lamentela non ha nulla di personale, dato che ho smesso di mandare biglietti d'auguri di qualunque tipo nel 1955. Ma trovo assurdo che una forma di commissariamento strisciante debba rendere la vita difficile alle persone che vogliono celebrare le proprie festività in una lingua a loro scelta, o costringerle a trascinarsi vergognose da un supermercato all'altro nella speranza di trovare un biglietto specifico per una certa religione, ormai consumato dalla permanenza sullo scaffale, sfuggito alla ramazza dei negozi conformisti che vengono imbeccati dalle radio trendy come la NPR. E quindi, immaginate che offesa capitale sarebbe se uno scrittore Yoruba venisse sorpreso a usare le strutture metaforiche della propria cultura e augurare al mondo un nuovo anno dal volto femminile, che in quella cultura rappresenta un volto gentile, benigno, in contrapposizione a uno ferocemente mascolino. La tendenza striscia, poi parte al trotto, poi al galoppo, travolgendo chiunque trovi sulla sua strada con gli zoccoli di ferro della censura e dell'intolleranza, finché la letteratura diventa così guardinga, così autocensoria, che come nella famosa favola del mille piedi che si ferma a contarsi le zampette, cessa semplicemente di andare avanti. Allo stato attuale il pericolo non è ancora del tutto evidente nel regno delle opere di fantasia, ma non si sta forse infiltrando nel discorso critico, dominandolo a scapito del confronto diretto con la carne e il sangue veri e propri della letteratura? Personalmente, ciò che mi preoccupa sempre più è una tendenza già percepibile in certa critica letteraria contemporanea africana, che sembra ansiosa di rivelarsi più spietata di Erode, viaggiando fianco a fianco con la valanga della critica politicamente corretta. Avete ascoltato la lettura di un articolo del premio Nobel Wole Soyinka dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Agatha Raisin, protagonista di una fortunata serie di gialli della scrittrice scozzese M.C. Beaton, è una signora di mezza età che, dopo aver chiuso con la sua agenzia londinese di public relation, si trasferisce in un villaggio del Cotswold, dove intraprende l'attività di investigatrice privata. Nel quarto romanzo della serie, l'eccentrica signora dovrà occuparsi di una diatriba nata tra un ricco proprietario terriero, Sir Charles Freight, e l'associazione dei Camminatori di Dembley, un gruppo di tranquilli passeggiatori che viene convinto dalla loro leader, l'agguerrita Jessica Turntink, a rivendicare un antico diritto di passo che consentirebbe loro di transitare per le terre di Sir Charles. Deborah Camden, una delle camminatrici, viene inviata a perlustrare il terreno, ma non volendo avere problemi, preferisce recarsi da Sir Charles per spiegargli i motivi della sua presenza. E allora, signorina? Deborah gli porse una mano affusolata. Deborah Camden, piacere di conoscerla. Piacere mio, si accomodi, si sieda. Ho ricevuto una lettera dalla signorina Turntink. Le ho appena risposto. Parte del diritto di passo attraversa in pieno uno dei miei campi. Tuttavia c'è un sentiero molto piacevole che gira attorno al campo. Se vi accontentate di quello, sarò molto lieto di invitarvi tutti quanti a bere il tè da me. Oh, è incredibilmente gentile da parte sua, disse Deborah. Stava cominciando a rilassarsi. Sir Charles pareva così dolce e inoffensivo e Jessica non avrebbe potuto rifiutare un invito tanto generoso. Sir Charles le sorrise. Deborah gli pareva una ragazza a modo. Aveva capelli chiari, folti, un po' scialbi, che la permanente aveva trasformato in una capigliatura abbastanza demodé, tutta ricci e onde. Il viso di Deborah era pallidissimo, quasi anemico e privo di trucco. Le ciglia erano bianche, gli occhi azzurro chiaro. Il corpo sottile, infagottato in una dozzinale camicetta bianca di nylon, in una gonna di acrilico, in un maglione di lana cascante, era gracile e piatto come una tavola. La gonna corta mostrava gambe lunghissime e ginocchia nodose che a Sir Charles parvero estremamente eccitanti. «Questa signorina Turntink sembra una donna temibile», disse Sir Charles. «Oh, in realtà è un tesoro», disse Deborah. «Ed è spaventosamente colta. È un insegnante come me e meriterebbe di insegnare in un posto un po' più prestigioso della scuola secondaria di Dembley. In una scuola più distinta non riuscirebbe a spadroneggiare», pensò Sir Charles,